Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. I lavori di domani, di Anna Marino. Una nuova figura che digitalizza gli artigiani trasformando i laboratori in botteghe 4.0 è quella dell'Artisan Digital Strategist, che punta a rivoluzionare il futuro del Made in Italy fornendo agli artigiani gli strumenti e le metodologie digitali adatte per proporsi al mercato globale tramite il web. Giacomo e Tommaso Chinellato sono due gemelli veneti, classe 95, Artisan Digital Strategist appunto, e insieme hanno anche formato un'accademia per formare altri nuovi artigiani digitali come loro. In che cosa consiste il vostro lavoro? Ce ne parli tu, Giacomo, ospite oggi per tutti e due. Il nostro lavoro consiste nell'insegnare agli artigiani italiani, sia amatoriali sia artigiani professionisti che hanno quindi già un'attività avviata, a creare un brand online in modo da spostare al 100% la propria attività online. Nello specifico, quello che insegniamo noi è proprio un processo che a 360 gradi cura questo spostamento dell'attività online, proprio dall'inizio, quindi dalla scelta della linea di prodotti con cui posizionarsi online, perché ovviamente vendere online è molto diverso rispetto al vendere in un negozio fisico, quindi quando si vende online è molto importante avere un'identità dietro la propria linea di prodotti, quindi partendo dalla scelta, dall'ideazione, dalla creazione della linea di prodotti con cui presentarsi online. È un salto molto importante che fate e fate fare a chi è già artigiano, lavora già con le proprie mani, magari lavora anche con degli strumenti, magari si è aggiornato, ma il salto è un salto digitale ed è un salto che avete fatto in famiglia, gemelli, ma anche tutta la famiglia. Ecco, qual è la vostra giornata tipo? Questo percorso è iniziato appunto per tutta la nostra famiglia all'incirca 2 anni fa, quando abbiamo deciso di tra virgolette sfruttare il potenziale di nostro padre, che ha avuto sempre la passione della lavorazione del legno, ma non era mai riuscito a trasformarla in un lavoro vero e proprio. Così mio fratello, appunto, date le nostre competenze nel mondo digitale, soprattutto in ambito e-commerce e promozione sui social network, abbiamo deciso di creare un brand online per i prodotti di nostro padre, che appunto, dopo un profondo studio, ha deciso di focalizzarsi su una creazione di una linea di prodotti per cani e gatti, in particolare dei portaciotoli in legno per cani e gatti, e così col tempo questo progetto è cresciuto sempre di più ed è diventato tuttora il progetto che occupa a tempo pieno nostro padre e nostra madre, che si occupano appunto della vendita online di questi prodotti artigianali che realizzano a casa loro. Quindi la sperimentazione avviene esattamente in famiglia, ma ruota anche intorno a quello il vostro guadagno. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro, anche a seconda della seniority? Ovviamente voi siete molto giovani, ci sono anche diciamo persone che sono artigiani tradizionali e che possono magari guadagnare un po' di più grazie a questo aggiornamento. Il nostro progetto è un progetto che è appena nato e diciamo ha avuto subito un forte successo. Parlo appunto del progetto di Beldox, ossia di questi prodotti che realizza la nostra famiglia. La forchetta di guadagno è subito cresciuta sopra, possiamo dire, i 2.000 euro al mese, sin da, possiamo dire, dopo 2 mesi dal lancio dell'e-commerce, e in alcuni mesi è arrivata a toccare anche cifre un po' più importanti come i 4-5 mila euro al mese di guadagno, che appunto per una piccola famiglia che si appresta alla creazione di un brand online direttamente da casa è sicuramente una cifra importante. Certo, è anche fonte di autoimpiego. Ecco, dove ti sei formato, dove vi siete formati tu e il tuo fratello gemello? Sì, noi ci siamo formati principalmente online. Abbiamo frequentato, prima di lanciare questo progetto, molti corsi online, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, molto specifici riguardo appunto al marketing digitale, riguardo le vendite online, riguardo il mondo dell'e-commerce, riguardo le promozioni sui social network. Imprenditori che hanno già acquisito queste competenze recentemente e che hanno deciso di condividerle online attraverso dei corsi di formazione. Ecco, puoi dare qualche consiglio, perché ovviamente essendo online dai qualche dritta di link. per chiunque sia un artigiano amatoriale o professionale, consigliamo il nostro corso di formazione che abbiamo recentemente lanciato 6 mesi fa, che si chiama Rinascimento Handmade, che può essere appunto visto su rinascimentohandmade.com. Ci sono alcune anche lezioni gratuite che diamo appunto gratuitamente agli artigiani che vogliono scoprire i nostri servizi. E poi comunque abbiamo un nostro canale YouTube che si chiama sempre Rinascimento Handmade, in cui continuiamo a pubblicare video educativi e formativi specifici per gli artigiani. Questi percorsi per la formazione, insomma, della tua figura sono a pagamento, gratuiti? Ci sono dei percorsi gratuiti che noi appunto pubblicizziamo, perché sono comunque del materiale molto utile e appunto gratuito per diciamo chi vuole partire dalle basi, e poi per chi vuole approfondire i nostri insegnamenti, quindi entrare all'interno dell'Accademia del Rinascimento, che è il nostro corso di formazione, c'è appunto un contributo che viene richiesto per gli artigiani che si vogliono iscrivere a questo percorso. Siamo attualmente a più di 1000 artigiani iscritti, nonostante appunto il progetto sia stato lanciato da soli 6 mesi. Una curiosità, il fatto di lavorare in team a due, come gemelli, com'è? Sì, allora io e mio fratello abbiamo cominciato appunto 6 mesi fa insieme, appunto siamo gemelli, quindi abbiamo deciso di avere tra virgolette altri gemelli, quindi altri artigiani che seguono il nostro percorso, la nostra esperienza, e quindi la nostra missione è quella di duplicare il successo che abbiamo avuto noi con la nostra attività artigianale ad altre attività artigianali italiane, quindi avere una sorta di secondo gemellaggio con tutti gli artigiani italiani che vogliono imparare le nostre competenze di marketing digitale. E infatti appunto la missione di Rinascimento Handmade è proprio quella di portare al successo più artigiani possibili, far rinascere in un certo senso l'artigianato italiano. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.